Le macchine astratte operano nei concatenamenti concreti. Si definiscono per il quarto aspetto dei concatenamenti, cioè per le punte di decodificazione e deterritorializzazione. Esse tracciano queste punte. Aprono quindi il concatenamento territoriale su altro, su concatenamenti di un altro tipo, sul molecolare e sul cosmico, e costituiscono i divenire. Ok. Sono sempre singolari, immanenti, ok? Le macchine astratte ignorano le forme e le sostanze, in questo senso sono astratte. Ma è anche il senso rigoroso del concetto di macchina. Esse eccedono ogni macchina, si oppongono all'astratto nel senso ordinario. Le macchine astratte consistono di materie non formate e di funzioni non formali. Ogni macchina astratta è un insieme consolidato di materie e funzioni. Chiaro, no? Materie non formate e... Ogni macchina astratta è un insieme consolidato di materie e funzioni. Quindi una leva è una macchina astratta. Una leva è una macchina astratta? Buona domanda. In che senso? Ma anche concettualmente. Sviluppa. Ah, la leva è la macchina più semplice che insegnano a scuola, no? Sì. Tu applichi una forza, sì, sì, certo. Un punto e una forza moltiplicata. E perché è una macchina astratta? È astratta. No, ok, finché la concettualizzi, non la butti giù, non la realizzi, sì. Così. Ma per chi chiede, no? È una domanda. Esatto. Allora, una domanda alla quale io non so rispondere. Qualcuno? Nemmeno. Però magari cerchiamo la risposta nel testo. Puoi leggere l'ultima frase? Sì. Allora. Consolidate di... Sì, allora. Le macchine astratte consistono di materie non formate e di funzioni non formali. Ogni macchina astratta è un insieme consolidato di materie e funzioni. Materie e funzioni scritto col trattino. Come si fa a lavoro astratto? Sai che anch'io ho pensato a questa roba qui. Io non so cos'è. Lavoro astratto come concetto marxiano, quando lavoro astratto come legge del valore. Nel momento stesso in cui il lavoro industriale ti impone delle funzioni, e la funzione è l'altra parola che c'è la prima di funzione. Materia non formata. Cioè, diventa la misura universale del lavoro, praticamente, che però riesce a misurare, appunto proprio perché è astratta, riesce a misurare tutte le forme di lavoro in maniera universale. Com'è che si chiama il concetto? Lavoro astratto. Lavoro astratto. Lavoro astratto. Sì, poi in realtà tutta la trattazione del primo livello del Capitale è fatta proprio su come all'interno delle società dove si produce la merce c'è lo scarto, per la possibilità di misurare un valore che non sia legato alla singola produzione, ma che è un valore universale, che poi è il tempo che ci si impiega per produrre quella merce, e qui sta, come dire, lo scarto sulla base della dell'astrazione, che poi appunto, no, è la produzione di questo tipo di produzione che caratterizza le società capitalistiche rispetto a quelle. Infatti c'è tutta la questione per cui nel primo libro, vabbè, sempre stare a fare una roba su questa, però tutta la questione per cui anche Aristotele si rende conto che le merci si scambiano in modo paritario, ma avendo a che fare con una società di tipo schiavista, dove non esiste una produzione capitalista, non si spiega questa cosa, e invece poi in una società capitalistica la merce che si scambia è la merce lavoro, ed è l'unica merce che si scambia, che si può scambiare in questo modo, ed è per quello che poi non arriva a capire l'astrazione e lo scambio di merci in modo universale. Quindi il plus valore è una macchina astratta? No, il plus valore è una cosa che riguarda la produzione. Come si misura l'astrazione del lavoro, quella è una cosa che riguarda la società capitalistica ed è prettamente è afferente esclusivamente alle società di tipo capitalistico, a differenza delle altre. Quindi il valore misura il lavoro e attraverso la misura del lavoro abbiamo un plus valore. Cioè, quindi il plus valore è il risultato, se vogliamo, dell'astrazione. Sì, Sì, in realtà il plus valore esiste anche all'interno della società, nel senso che poi nella società capitalistica è celato nel processo di produzione. Questo è quello che differenzia rispetto alla società, perché tu vai a lavorare e non ti rendi conto che produci plus valore dentro la fabbrica, che nelle altre società esiste il lavoro in più, mentre nel processo di produzione di fabbrica questo processo è completamente celato, quello che caratterizza la produzione capitalistica. Però adesso non so. Cioè, forse tu, secondo me, no, secondo me su questa questione della macchina astratta, cioè, ci dobbiamo tornare con una serie di strumenti e di letture. Poi non so rispetto a quando altro il testo che hai tu, come c'entra sta roba della macchina astratta. No, però non. Vabbè, quindi capiamo su me come andare. Perché come a un certo punto. Però come hai detto Tommaso, molto astratto anche a proposito, è un concetto molto teorico. Allora, per esempio, a un certo punto, eravamo arrivati a un certo punto su Micropolitica, sì. Fanno tre punti, cioè dicono siamo già in grado di tracciare una carta, e poi punto 1, punto 2, punto 3. Quelli la sa all'inizio proprio, quando... No, è a metà. Quando provano a... E poi attacca coi barbari. Ah no, non ci siamo arrivati. Non ci siamo arrivati, ok. Vabbè, perché... Vabbè, allora, siamo arrivati, ti dico. La questione del desiderio fascista, ci siamo arrivati. Massa, classe, ci siamo arrivati. Secondo me siamo arrivati qua, si devono evitare 4 errori al riguardo di questa segmentarità flessibile e molecolare. Ah, esatto. Si devono evitare 4 errori. Allora, Caius. Dove parla poi del fascismo. Il fascismo è ancora più pericoloso per il suo microfascismo e le segmentazioni sottili sono tanto nocive quanto i segmenti più rigidi. Quindi, scusa, dove c'è lo schemino quando parla di Tardo? Cioè un cerchio segmentato, no? No, no, non ci siamo arrivati, no. Quindi è prima. Ecco, abbiamo letto qui. Come diceva Gabriel Tardi, bisognerebbe sapere quali contadini e quali regioni del Mezzogiorno hanno cominciato a non salutare più i proprietari del vicinato. E poi sì, la questione del 68, questa l'abbiamo letta. Qua siamo arrivati, dai. Sì. Dopo, il problema dunque è che, da qui dovremmo ripartire, il problema dunque è che il molare e il molecolare non si distinguono soltanto per la misura, la scala, la dimensione, ma per la... Cioè, l'abbiamo letto, però eravamo già arrivati a fine incontro, ma per la natura del sistema di riferimento preso in considerazione. Allora forse bisognerebbe impiegare le parole linea e segmenti solo per l'organizzazione molare e cercare per la composizione molecolare altre parole più adatte. Infatti ogni qualvolta è possibile assegnare una linea di segmenti ben determinati, ci si accorge che essa si prolunga in un'altra forma, in un flusso di quanta. Voilà. E ogni volta si può situare alla loro frontiera un centro di potere e definirlo non in funzione del suo esercizio assoluto in un campo, ma degli adattamenti e delle conversioni relative che esso opera tra la linea e il flusso. Sì, è stupendo il problema. Consideriamo una linea monetaria. Vabbè, e poi qui attacca con l'esempio. Il fatto che parli della moneta. Sì, il concetto generale è questo. Consideriamo una linea monetaria, però non ho capito. Consideriamo una linea monetaria con dei segmenti. Questi segmenti possono essere determinati da diversi punti di vista. Ad esempio dal punto di vista del bilancio di un'impresa. Due punti. Salari reali, profitti netti, salari di direzione, interesse dei capitali, fondi di riserva, investimenti. Questi sono i segmenti. Ora, questa linea di moneta pagamento rinvia a un aspetto completamente diverso, ossia a un flusso di moneta finanziamento che non comporta più segmenti ma poli, singolarità e quanta. I poli, tra parentesi, i poli del flusso sono la creazione e la distruzione della moneta. Le singolarità sono le disponibilità nominali. I quanta sono inflazione, deflazione e ristagno. Si è parlato a questo riguardo di un flusso mutante, convulsivo, creatore e circolatorio, legato al desiderio sempre soggiacente alla linea solida e ai sentimenti che determinano l'interesse, l'offerta e la domanda. Poi qui c'è la nota 14, prova perché sennò faccio fatica a recuperarla. La leggo subito. Sì, niente. Sul flusso del potere mutante sulla distinzione delle due monete CFR. Monet Salere Profi. Di Max. Di Monete Salere Profi. B. Schmidt. In una bilancia dei pagamenti si ritrova una segmentalità binaria che distingue, ad esempio, operazioni dette autonome e operazioni dette compensatrici. Cioè, anche dal punto di un linguaggio economico io non ho mai incontrato. No, esatto. Cioè, non è convenzionale. Secondo me sta cosa ci incasina. Nel senso, io il, diciamo, passaggio generale lo capisco bene e mi ci soffermerei a commentarlo volentieri. No, però, poi... sì, sì. No, è che il fatto che proprio discuta della moneta è interessante. Sarebbe bello capire che cosa dice della moneta? Cioè, compensativo, nel senso dei pezzi di interpretazione si possono trovare, cioè, perché la stanno su. Per cui compensativo mi sembra una parola interessante, anche nominale delle singolarità mi sembra interessante. Però c'è da capire tutto. Che significa le singolarità sono le disponibilità nominali? Nominale, che significa? Sono le, è la currency in inglese, non c'è in italiano. È la... A chi ora anzi? In francese è la... Dio santo. Comunque è moneta corrente. Moneta corrente, sì. In francese è un nome che hanno tradotto così, ma... Anzi, mi verrà. Ma... Ah. Aspetta, rispiego, mi sono perso. Cioè, la propria... Allora, la parentesi moneta è... corrente è un valore nominale. Ah, nominato a qualcuno. Può essere durante la rivoluzione francese. Avevano dato, fatto gli assegnati perché... Il corso corrente si stava svalutando, poi in realtà si svalutavano più il corso corrente perché c'era il corso legato all'oro e gli assegnati. Qui c'erano due valute, per esempio, però sono nominali. Ok, ok. La carta moneta che avete ha un nome, cioè c'è sopra la firma di Draghi e lui certifica questa firma che vale 100 euro, ma è una convenzione. Cioè, sì, è il valore 5.000 lire sono 5.000 lire. Sì, okay. 5 euro sono 5 euro, però... Sì, sì, in termini reali, puoi tradurre tutto ciò in termini reali. Certo. Sì, lo e quindi al netto dell'inflazione. Cento anni fa erano legati all'oro, fino a 100 anni fa circa erano legati all'oro. Poi in realtà il problema si presentò la prima volta durante la rivoluzione francese. E lì, ma con gli assegnati si svalutarono, mentre prima erano legati a terra. Poi nessuno comprava più le terre. Deve esserci sempre un referente, capito, materiale. Concreto. E ora quindi il referente... Adesso, no, adesso fino agli anni 70, il 77, era l'oro, poi è stato sganciato con Bretton Woods, no? Sì. È stata la... Non c'è rottura. Non c'è più il referente. Sì, ma già allora, in realtà, anche l'oro fluttuava. C'è comunque sempre un... ci devi credere. Devi credere che quello che... Tutto il sistema che funziona su quello. Non era molto complicato, sì. Ma no, in realtà no. Quello di nominale è facile. Cioè, aspetta, tanto per riprendere un secondo lì, quindi dice la singolarità è... C'è quel libro di Orlan sulla moneta, ce l'ho, no, che c'è da leggere, tra l'altro non è anche troppo difficile. Ce l'ho, ce l'ho. Qui Leo dice, i poli del flusso sono la creazione e la distruzione di moneta. Le singolarità sono le disponibilità nominali, i quanta sono inflazione, deflazione e ristagno. Io la dico molto brutta come lo so io, se crei moneta vale meno perché ne metti sul mercato, se distruggi le banche lo fanno, raccolgono moneta, distruggono e alzano il valore monetario, ma non si fa più, però si faceva. Questo lo posso interpretare così in economia classica. Sì. Come si collega questo al discorso segmentarietà, flusso di quanta? Sì, certo. Allora, ma i quanta sono il pezzo generale è questo qui nella parentesi. Qui diciamo quanta? Poi linea monetaria e la parentesi nominale è qui. I poli sono del flusso. Ma io non lo so, però mi viene in mente Spinoza, ma i modi della sostanza possono essere quanti? il quanto sono i modi della sostanza. Qui ci servirebbe tipo Francesco che è uno spinoziano, perché la domanda che mi farei io è il modo di Spinoza ha un'identità, diciamo, rigida, e questo potrebbe differenziare un modo da un quanta. Nel senso, allora, Spinoza è Deus sive natura, no? E questo blocco unico è diversificato al suo interno. Sì. Cioè, nell'immanenza del Dio o la natura c'è differenza. E queste differenze in sostanza sono i modi. Sono i modi, sì. Cioè, io sono un modo della sostanza. Sì. Però io, a mia volta, sono composto da altri modi. Gradi di passioni, che vengono, cioè, come dire, il modo che viene influenzato da dove si trova, no? Perché vabbè, ma senza fare la spostazione, però sei affettato dall'esterno, e quindi poi il modo è, essendo piantato nella natura, è influenzato da fuori, l'esperienza che tu fai del tuo corpo, poi quella che si crea attraverso il tuo corpo, quello che si crea dentro la testa praticamente, quindi l'esperienza sensibile è poi quella che ti permette di creare le idee, cioè questo tipo di circolarità, no? Cioè, l'affezione, cioè il modo è affettato dall'ambiente esterno. Quindi io non so bene se questa roba se la poneva tanto a senso, c'entra, però è Spinoza, funziona più o meno così. Uguale. Sì, sì, però la canzone in effetti, ma sono confuso se la riusciva adesso, ma comunque andiamo un attimo sul generale. No, non avanti, cioè stiamo qui. Però, sulla riga che tu dicevi, ecco, esatto, cioè, allora io filosoficamente sono più o meno in grado di interpretare il passaggio generale. Poi quello della moneta, io di moneta non so niente, e quindi boh. Comunque sia, c'è solo 24 ore, ma esatto. È un discorso, un altro. Vabbè, no, prima ho visto macchina astratta, lo dicono qui. Sarebbe meglio allora considerare gli stati simultanei della macchina astratta. Da una parte c'è una macchina astratta di surcodificazione, e vabbè, questo poi rinvia all'apparato di stato. Vabbè, insomma, la frase il molare e il molecolare non si distinguono non soltanto per la misura, la scala o la dimensione, cioè non è un fatto di misura, ma per la natura del sistema di riferimento preso in considerazione. Bisognerebbe impiegare le parole linee e segmenti per l'organizzazione molare, creare per la composizione molecolare altri termini più adatti, cioè flusso di quanta. Allora io mi fermerei un attimo qui, perché poi più avanti sarebbe carino trovarlo. Ah, ecco, forse l'ho trovato. Forse. Allora, sentite questa. Leggo un po', Ecco come si potrebbe distinguere la linea a segmenti e il flusso di quanta. Un flusso mutante implica sempre qualcosa che tende a sfuggire ai codici, ok? Ok. E i quanta sono precisamente i segni o i gradi di deterritorializzazione sul flusso decodificato. La linea decodificato. La linea rigida, invece, implica una surcodificazione che si sostituisce ai codici declinati, e i segmenti sono come riterritorializzati sulla linea surcodificante. Allora, sì, io direi magari come differenza fra flusso di quanta e linea o segmento c'è appunto la differenza che c'è fra il molare e il molecolare. A un certo punto lo dicono, secondo me, in maniera molto più comprensibile. è più che interpretarlo io. Sarebbe carino proprio leggere il passaggio, però chissà dove cacchio è. Ah, eccolo. Buona o cattiva la politica, perché dopo parlano di massa e classe, no? Massa intesa come ritiro fuori un po' corpo senza organi composto da una moltitudine di singolarità, cioè di individui che stanno tra loro in rapporti variabili, cioè non variabili, perché variabili implica un collegamento alla costante, vari, cioè insomma. Mentre classe c'è una comunione di interessi all'interno, nell'ordine di prossimità, diciamo, no? Noi siamo in classe insieme, ci sta sul culo il padrone, che è della classe binariamente opposta a... binario, se non c'eri l'altra volta, tre segmentarietà, binaria, dialettica, circolare, cioè i gradi di estensione, l'esempio che fanno loro è io, la mia famiglia, il mio quartiere, la mia città, il mio paese, il mio continente, così, e lineare, cioè il processo, la scuola, il lavoro, la pensione, eccetera. Allora, quindi, morale, buona o cattiva la politica con i suoi giudizi è sempre morale, ma è il molecolare con le sue valutazioni a farla. Cosa significa sta cosa? Significa che a livello di massa e quindi a livello di insieme decodificato succedono le cose, però a livello molare, cioè a livello di codice, queste cose vengono, diciamo, comprese e diversificate, nel senso, perché quella collettività agisce in un modo, perché vuole ottenere quel risultato. Questo ragionamento che sto facendo è un ragionamento molare, cioè io non colgo il corpo senza organi brulicante della massa, ma codifico questa azione incodificabile in un qualcosa, cioè la segmento, cioè differenzio delle cose, in sostanza. Ovviamente posso agire col fioretto o con lo spadone, comunque sia, qualcosa escludo, perché gli do un'identità, cioè in sostanza assottiglio la massa fino ad arrivare a un'essenza, diciamo. L'essenza chiaramente la produco io, non è che c'era già dentro, ecco. E quindi questa la classe cristallizza, ecco, la classe cristallizza la massa e anche attribuisce un'identità fissa, fa la fotografia fissa, esatto, fa la foto, fa una foto. Tra l'altro la foto è fondamentale, per esempio in Kafka, sempre delle Sguattari, tutto il primo capitolo loro usano la contrapposizione binaria e contrappongono la foto alla canzone e dicono in Kafka la foto, il ritratto, in Kafka ogni ritratto è una riterritorializzazione e ogni musica è una deterritorializzazione. Ad esempio Samsa, se vi racconto, Metamorfosi, prima di crepare si aggrappa al ritratto della sorella o qualcosa del genere, adesso non mi ricordo, mentre ad esempio Josephine la cantante, o altri esempi, oppure sempre nella Metamorfosi c'è uno, c'è un concerto, uno che suona il violino, un disco, non mi ricordo, sì. Comunque sia, c'è questa musica che porta fuori e quindi la musica è un qualcosa che fa fluire il flusso, mentre il ritratto arresta il flusso e quindi riterritorializza su un segmento. Quindi diciamo, se vogliamo contrapporre, molare fissa, molecolare fugge, classe fissa, fissa massa fugge e sostanzialmente, cioè qui, quando dicono la politica è sempre molare, ma il molecolare a farla, significa che nella Terra, cioè nel pianeta Terra che è deterritorializzato in se stesso, accadono movimenti. E però questi movimenti vengono codificati, cioè il discorso codificato significa comprensione, ma significa anche comunicazione, significa azione, eccetera. Cioè ogni mia azione, ad esempio, qualsiasi gesto che compio, è un gesto codificato, cioè comprensibile come codificato da chi mi osserva, che però tradisce al suo interno una complessità molecolare infinita, cioè tutte, ad esempio, le cellule del mio braccio che nascono e muoiono quando prendo la birra, non so, che rimane lì, cioè non viene codificata in un insieme molare, perché l'insieme molare taglia. E quindi, in questo senso, siamo partiti da... Quindi in questo senso, linee e segmenti solo per l'organizzazione molare e flusso di quanta. Flusso di quanta, allora io non ci capisco molto di fisica neanche, però flusso di quanta lo interpreto come un insieme di singolarità, cioè queste particelle che non sono in se stesse definibili e non sono, cioè, e alle quali non si può attribuire un'identità. Nel senso, sono cose che accadono. Ecco, queste cose che accadono si raccolgono in insiemi molari comprensibili tramite una segmentarietà. Stavo pensando sulla parola comprensibili, che sto usando tantissimo, non vi ci fissate troppo, perché non è solo un discorso di comprensione, c'è un discorso di codificazione e quindi è un discorso di... Potrebbe usare la parola surcodificazione in questo caso, io faccio fatica a metterla al posto giusto. Ecco, surcodificazione è proprio, sì, cioè... Ma qual è il Tusser? Althusser ne parla in un articolo, surdeterminazione. Ah, surdeterminazione. Che però secondo me il senso è più o meno lo stesso. Allora... È veramente un po' difficile da definire, però ci possiamo provare. E anche qui sarebbe carino trovare, ad esempio, c'è un punto che rileggevo prima. Ah, qui, sì. Allora, da questo punto di vista, dobbiamo introdurre una differenza tra due nozioni: la connessione e la coniugazione dei flussi. Perché se la connessione indica il modo in cui i flussi decodificati o deterritorializzati si rilanciano reciprocamente, precipitano la loro fuga comune e sommano o infiammano il loro quanta, cioè c'è un incontro e un divenire comune. Ok? La coniugazione di questi stessi flussi rimanda piuttosto al loro relativo arresto, come punto di accumulazione che ora ostruisce o ostacola le linee di fuga e opera una riterritorializzazione generale e fa passare i flussi sotto il dominio di uno di essi capace di surcodificarli. Ok? Cioè, in sostanza, nell'incontro c'è una parte che è più potente dell'altra e quindi questa parte che ha un codice surcodifica l'altro codice e lo fa essere il proprio codice. Attenzione perché, ma è il flusso più deterritorializzato che opera l'accumulazione o la congiunzione dei processi, determina la surcodificazione e serve da base alla riterritorializzazione sotto il secondo aspetto. Quindi quello e più questo, deterritorializzato. Sì, esatto, okay. Esatto. Perché sostanzialmente, cioè, allora, questo se ne parlava al primissimo incontro, certo. Secondo me è un punto fondamentale, cioè il discorso della macchina, in sostanza. Cioè che una macchina che taglia una struttura e la deterritorializza diventa essa stessa struttura. Cioè a un certo punto la fuga produce un territorio e quindi produce una molarità, diciamo, un sistema di potere, ecco, volendo, cioè un codice, e dice all'interno di questo territorio si seguono queste regole, diciamo, rimando chiaramente al discorso della distribuzione orizzontale. E quindi, però, è chiaro che all'interno del territorio poi nascono altre linee di fuga. Ecco. E quindi è l'aspetto più deterritorializzato che porta fuori, che si raccoglie in se stesso, codifica, ma da questo nuovo codice nascono altre linee di fuga che fluiscono via, le quali a loro volta diventeranno altri territori di territorializzazione. Ecco. E questo è un po' lo schema generale, direi. E queste cose, ecco, se un territorio è molare, ma non perché è molare ontologicamente, no, certo, molare, no? Non è questo il punto. Infatti anche qui il discorso logica-ontologia, cioè comprensione o essenza, quello che è, cioè va dibattuto, perché secondo me è un problema da considerare. Se un territorio viene, diciamo, visto come molare, poi in realtà al suo interno nasconde tutto un insieme molecolare che produce quella molarità, certo. Ecco. Sì. No, mi viene in mente, quindi, diciamo, ah no, stavo no, facendo un esempio, mi viene in mente, se il sentimento che provo io per quella persona è amore, amore è un macro insieme molare che traduce, cioè segmenta, tutta quella pulsione molecolare che provo io. Perché a volte mi domando, ma io la mia donna la amo o non la amo? Non lo so più. Perché non riesco a tradurre in un macroinsieme molare logico, concettuale, nominale, linguistico, sociale, questa cosa che provo, ecco. E oppure sempre che sull'amore, per esempio, cioè si scrive di amore da Saffo, ma magari anche prima, che ne so, e ogni volta è un amore diverso, cioè l'amore romantico è diverso, eccetera, no? Perché? Perché sono cose che accadono, sono flussi di quanta interiori, intersoggettivi, che avvengono, che affettano gli individui, le collettività, e che noi molarizziamo, traduciamo, no? Diamo, attribuiamo delle identità, per quanto nomadi esse siano. Mi viene in mente una roba che, vabbè, è un po' off topic, però ti dico perché mi sembra interessante, che due settimane fa ho partecipato a un seminario a storia e il relatore era Chignola, faceva tutta una relazione su Foucault, la questione dei governanti, e alla fine praticamente ci siamo... L'hai registrato? No, perché era... Era una roba, chi lavora, una roba fatta da Solinesco Studi Atlantici. E comunque alla fine c'è stato un po', come dire, non uno scornamento, però non si riusciva ad andare avanti, perché il problema era, ah, ma allora la questione dei governati, loro, come dire, si sottraggono alla governance e mettono in discussione tutto, e poi ci sono i flussi. E la domanda da milioni di dollari era, ma che cosa sono i flussi? Cioè, su sta roba, no, chi diceva, ah, ma... una cazzata, perché, come dire, i flussi poi vengono sempre governati, allora dammi una definizione di flusso. E ovviamente Chignola ha detto, io non c'ho una definizione di flusso, non, anche perché poi tra le merci e le persone c'è una bella differenza, però, come dire, su questa questione qui, alla fine, cioè, non si è riusciti a fare un passo avanti. Ah. E però non c'è stata nemmeno, come dire, nessuno poi ha pensato a questo testo. Sì. E però, come dire, secondo me c'entra molto, c'entra tutta questa roba qui, assolutamente. Perché poi tipo fra le merci e le persone, sviluppo, c'è una differenza molare. Però a livello molecolare, nel senso, a livello molare c'è una differenza fra il mio torace e il mio maglione, sì, perché tutti sapete che io indosso un maglione nero e grigio, perché sapete come è un corpo maschile che non indossa un maglione, no? Però a livello molecolare è questa la differenza fra me e il mio maglione. Cioè a livello molecolare, no? A livello molare la mia identità comincia dalla punta dell'alluce e finisce qui. Però a livello molecolare il mio corpo si propaga, ad esempio, fino a mia madre magari che mi sta pensando in questo momento. Il flusso Tommaso Aveta scorre all'interno di... insomma, scorre in varie determinazioni molari. Quindi ecco, come dire, diciamo, chi non ha accesso al nostro codice molare intersoggettivo? Se io schiaccio una formica con una scarpa, la formica non sa se quella scarpa è l'involucro che avvolge il mio piede, no? È un po' chiaro? No, ma mi sono sempre domandato. Esatto. Per me il flusso è qualcosa che cambia nel tempo. Una figura di merito che cambia nel tempo. Figura di merito vuol dire una grandezza, può essere, oppure anche qualcos'altro, più generico. Eraclito, ma ad arrivare al flusso di corrente d'acqua. Però come dice lì nel libro, un'altra cosa ancora. Secondo me è il divenire del sistema economico, forse avete ragione, c'è tale Marx, che non è statico, si compone di tutto quello che loro elencano e cercano di categorizzare, mettendo cos'è che sono i quanti, altro? Deflazione, inflazione e stagnazione. Però sono cose che si concatenano l'uno con l'altro, perché si. Cioè, sono i momenti di deflazione, di inflazione, di stagnazione che rientrano sempre nella mole del sistema economico, se vuoi leggere al Marx o al Marx, in economia capitalistica. Ma allora all'inizio lui dice molare molecolare, molare linee, segmenti, ho scritto, magari invece diventano, però più o meno diventano flusso di quanta. Io allora adesso non capisco. Sì, aspetta. Viene tutto. Allora. Non si distinguono per la misura, bisognerebbe impiegare le parole linee e segmenti solo per l'organizzazione molare e cercare per l'organizzazione molecolare termini più adatti, cioè flusso di quanta. Molecolare. Allora, infatti, quando è possibile assegnare una linea di segmenti ben determinati, ci si accorge che essa si prolunga in un'altra forma, in un flusso di quanta. Si prolunga. Ecco. Allora si prolunga, ci può suggerire che le identità molari sfumano, nel senso non sono così ben definite. Molari. Cioè il fraintendimento. Faccio una battuta a un tipo che si incazza, però, cioè, lui si incazza, ma io non volevo farlo incazzare, però c'è un fraintendimento. Cioè, una linea molare non viene compresa e sfuma in un qualcos'altro che può completamente deviare il senso di quel rapporto. Ecco, diciamo. No, non so se questo esempio ritorna, però quindi il flusso di quanta è molecolare, anche sì. Se la linea e il segmento si prolungano in un flusso di quanta, il flusso di quanta rimane molecolare. Perfetto, ci sta. Eh no, però cioè ragioniamoci un po'. Allora, flusso di quanta, come diceva Babe, c'è un qualcosa. Allora, dicevo, io ho composto la singolarità indefinibile, eccetera, però è un flusso, cioè qualcosa che diviene e si differenzia divenendo, cioè si trasforma nello stesso processo del divenire. Allora, questo flusso noi lo comprendiamo sempre il famoso comprendere verbo uguale x, solo se... Ehi! Ciao! Ciao! Ritorno da te. Grazie. Solo se... Che fa un riassunto, Paolo? Troppo difficile. Dicevo? Tutti avete chiaro? Posso... Ah, ecco, flusso di quanta? Flusso di quanta si diversifica divenendo. Ecco. Allora, non è un qualcosa a cui si può attribuire un'identità, se non un'identità molare che lo codifica. Però questo codice che comprende questo movimento, cioè il codice blocca il movimento, lo comprende, lo segmenta, quindi lo rende comprensibile, diciamo, però il codice non è mai chiuso in se stesso, si prolunga in questa indefinibilità, cioè si prolunga in una differenziazione che prima o poi succede. Ecco, e quando è questo prima o poi succede? È quando un flusso di quanta molecolari si traduce in una segmentarità molare che lo rende comprensibile. Oh, un giorno troveremo una parola per sostituire comprensibile. Posso intuitivamente, proprio questo su grammatica la continuità di Mirno, però riprende Simon Don. È molto semplice, quindi sulla questione dell'individuazione, che mi pare abbia a che fare un po' con la questione della segmentarietà. Vabbè, insomma, le due tesi di Simon Don. Allora, la prima tesi è anche con la questione del corpo senza organi, secondo me. Vediamo. La prima tesi afferma che l'individuazione non è mai completa. Quindi l'idea è che non esiste un individuo già formato, ma che l'individuo è il risultato di un processo. Quindi viene dopo, non prima. È continuo il processo, però se non è mai completo. Quindi la prima tesi afferma che l'individuazione non è mai completa, che il pre-individuale non si traduce mai del tutto in singolarità. Adesso, pre-individuale. Può essere il virtuale di cui abbiamo parlato? Sì, sicuramente. Infatti io ridisegnerei il con rovesciato, che è stato contestato da un'ortodossia secondo me un po' ingiustificata, però secondo me rende bene. Di conseguenza, secondo Simon Don, il soggetto consiste nell'intreccio permanente tra elementi pre-individuali e aspetti individuati. Anzi, è questo intreccio. E quindi questo gioco continuo tra questo virtuale e i tentativi di segmentare questo flusso virtuale. Funzionano le parole, non lo so. Ma puoi rileggere anche. Di conseguenza, secondo Simon Don, il soggetto consiste nell'intreccio permanente tra elementi pre-individuali e aspetti individuati. Sì. Ok. Due punti. No, punto e virgola. Anzi, è questo intreccio tra elementi pre-individuali che continuamente devono individualizzarsi e aspetti individuati. Sarebbe un grave errore, secondo Simon Don, identificare il soggetto con una sua parte, quella singolarizzata, cioè quella già fissata. Il soggetto non è solo la parte già fissata. Sì, dipende come intende singolare. Ecco, credo che lo intenda... Perché singolare non è individuale, cioè singolare è pre-individuale. Ok, allora secondo la traslazione. Però lì... Esso è invece un composto, io ma anche sì, unicità irripetibile ma anche universalità anonima. Sì. Ok. Se l'io individuato... Vabbè, per dire non sostanzialmente sta dicendo, mettiamola così, lessico antropologico, il soggetto è culturalmente determinato. Cioè io quando mangio la mela la mangio come mi hanno insegnato a fare. Esatto. Cioè chi la taglia in quattro, chi la sbuccia. E quella è una segmentarietà. Sì, cioè però non è la segmentazione della mela. La segmentarietà è Tommaso Areta, il modo in cui tu uomo, mangi la mela, individuo, eccetera, mangia, cioè verbo, cosa fa quello, una mela che è un frutto, un individuo, eccetera. Poi, secondo me, la cosa interessante, qua dice... Da un punto di vista molare, da un punto di vista molecolare, invece è un flusso, cioè è un insieme, è un ecosistema, diciamo, che fluisce, okay, e si diversifica. Io assumo le proprietà della mela che diventano me e differenziano me perché sono diverso. Cioè ho al mio interno parti che prima non avevo. Allora, continuo, poi mi parlo, vediamo se... Allora, poi il soggetto è un campo di battaglia. Perché abbiamo detto ci sono elementi pre-individuali ed elementi individuati, cioè questa tensione continua, il soggetto è il risultato di questa tensione. Non di rado gli aspetti pre-individuali sembrano mettere in questione l'individuazione. Non quest'ultima, di rado? Non di rado. Quest'ultima mostra di essere un risultato precario, sempre reversibile. Altre volte viceversa è l'io puntuale che sembra voler ridurre a sé con parossistica voracità tutti gli aspetti pre-individuali della nostra esperienza. Sì. In ambedue i casi non mancano certo fenomeni di timor panico, angoscia, patologie di vario genere. Quindi mi metto o un io, questa è la parte che dicevo, o un io senza più mondo o un mondo senza più io. Sì. Ecco i due bordi estremi di un'oscillazione che però in forme più contenute non è mai del tutto assente. Di queste oscillazioni sono testimoni perspicui, secondo Simondoni, gli affetti e le passioni. La relazione tra pre-individuale e individuato è infatti mediata dagli affetti. Vabbè. Boh, mi sembrava che... Allora, due questioni. Una mi pare che dica, e anche quel... se mi viene l'assunto per fa, mi pare che dire in buona sostanza, diciamo che una vita senza grammatica non è possibile, cioè c'è sempre bisogno di una grammatica, di una segmentarietà, perché sennò è tanta cui la follia di Artò mi viene da pensare, cioè senza grammatica non puoi dire sei un corpo senza occhi. Esatto. Però questo poi neanche poi è un problema, insomma. Sei davvero un campo senza l'opera? Scusa, la seconda. Non lo so. No, mi pare che un po' cioè, che possa risuonare un po' con questo capitolo sulla faccenda della segmentarietà e dei flussi. Sì. E dei flussi di quanta. Dove per. Dove il flusso di quanta sarebbe questo pre-individuale, e la linea o la segmentarietà o la codificazione è appunto questa parte che viene individuata. Poi lui dice che è un processo che è una questione sociale, collettiva, cioè sì. L'individuazione è un processo, cioè la singolarità nell'incontro con l'altro che diventa l'individuazione è il riconoscimento, io so che quella è una cosa. In termini psicanalitici, sì. Quindi il pre-individuale quindi è non è un aspetto comune, è un aspetto. Sì, anche, sì. Lo è. Universale, dice a un certo punto. No? Sì, lui dice uno, infatti, da uno è morto, dice lui. Ah, ok. Poi non so se sarebbe d'accordo. Si ha a che fare innanzitutto con una realtà pre-individuale, ovvero con qualcosa di comune, universale e indifferenziato. Quindi pre-individuale lo definisce così. Comune, universale e indifferenziato, ok. Mettilo, poi lui lo... cioè le fa anche una questione biologica, insomma. Sì. Riconduce anche alla facoltà di parola. Sì, tutta la questione di non rispetto. Non c'è un fondo biologico. Allora andiamo piano, però. Allora, c'è anche com'è? Però vabbè, forse adesso ho spostato troppo il. Allora, no, volevo semplicemente. È bellissimo quel passaggio. Mi sembrava che. Com'è che dice? Per individuale è comune. Comune, universale. Universale e indifferenziato. Fantastico. comune, pre-individuale è comune, universale e indifferenziato. Corpo senza organi. Cioè, flusso molecolare. Il flusso molecolare che fa la politica è indifferenziato, cioè non è la politica. Non ci capisco un cazzo. Per capirci qualcosa devo molarizzarlo, cioè lo devo segmentare. Segmentandolo lo individuo. Fisso. Questo fenomeno va da qui a qui. Certo. Questa battaglia è relativa a far uscire di galera. Ma qui diciamo nel pre-individuale. Scusa, non volevo interrompere. Ah no, no, no, vai. No, no, ma finisci. Mi sono perso. Cazzo. No, è questione questa. Dentro alla molteplicità del pre-individuale c'è una molteplicità infinita di flussi di qua. Di flussi. Il pre-individuale è il flusso di quanto. È universale, perché? Perché si sottrae, la interpreto a braccio, magari dico una cazzata, e poi il libro non l'ho letto. Perché è universale? Perché si sottrae all'interpretazione, diciamo, logico-cognitiva. Cioè, il cielo è blu. È un'affermazione che esclude che il cielo sia rosso. Può arrivare qualcuno che mi dice no, il cielo è rosso. Abbiamo due poli di una dialettica, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, si combatte e alla fine uno c'ha ragione. Cioè, lo metti in una dimensione logica e in questo senso gli dai una segmentazione. E dal momento che lo segmenti, lo relativizzi. Cioè, lo sottrai a un universale. Il punto, però, direi, è che questo universale è un universale che non può essere compreso. Cioè, universale è il mio sentimento. Poi quando dico, ah cazzo, ma questo è amore, no? Allora lo sto sottraendo da questa universalità e lo sto codificando in un insieme, in un macro insieme molare. Quindi prendo il flusso di quanto è lo segmento. Ed è indifferenziato. Perché? Perché la differenziazione è proprio questa cosa che taglia via e trova un'essenza. Cioè, questo è amore e questa è una mela. E sono due cose diverse. A me sono una roba stride, che poi magari dico una bestialità, però questa idea dell'universalismo neutro è un po' dura da mandare giù, nel senso che l'universalismo non è neutro per definizione. L'universale non è neutro, poi magari non ci intendiamo sui termini, però la prospettiva di Simon Don la conosco poco e quindi non lo so, però questa è una questione che secondo me va tenuta dentro. Allora, se ti seguo bene, prendiamola così, tipo la Chiesa Cattolica dice Dio è universale, ok? Chi ci crede, chi non ci crede, non ci crede. C'è una segmentazione binaria. Quello che non ci crede, però, può sapere, ad esempio, che esistono altre chiese e che esistono altre cose. Se esiste altro, allora significa che non è universale. Di conseguenza, in che senso? Nel senso che quando un territorio, secondo quello che si diceva prima, diventa codice, cioè quando un codice diventa territorio, anzi, e si stabilizza e dà una propria normatività, non a caso è collegato col concetto di apparato di Stato, se ne parlava anche l'altra volta, cerchi concentrici, cioè che risuonano insieme, eccetera, allora quella segmentazione dice questo è il codice, tutto il resto sono cagate, perché questo è un codice universale. Però tu sai che non è universale perché? Perché ci sono i flussi, le punte di deterritorializzazione che deterritorializzano. Però quel codice lì si ritiene universale. Invece questo senso di universale è il senso del flusso di quanta, cioè il premolare. Cioè il prima che le cose possano essere il comprese. Infinito campo di possibilità. Le cose accadono a caso, cioè l'universo, dove noi non lo conosciamo, è universale. Dopodiché, dal momento in cui dici l'universo è finito o infinito, lo stai segmentando e quindi lo sottrai all'universale e gli dai una determinazione. Che a sua volta diventa un universale fittizio, però non so come dire. Certo, diventa un potere in sostanza, per farla breve. Vai, no. Sulla linea di quello che diceva Leo, perché allora comune, universale e indifferenziato per individuale. E quindi, e poi io senza mondo e mondo senza io. Io senza mondo lo capisco e penso Nietzsche sull'abisso e penso Bataille sull'abisso, quindi quel senso di vertigine quando ti accorgi che tutti i valori con i quali ti identificare non esistono più, io senza mondo, il mondo, mondo non è più codificato, quindi è un grande abisso. Mondo senza io, faccio fatica anch'io a mandarlo giù. Mondo senza io è atto? E lì però allora. O per me è il tentativo di raggiungere questo stato percettivo, so sì, per stato un po' percettivo. Però tipo io penso mondo senza io, e allora comune indifferenziato universale, allora penso al corpo come sostanza, sì. E quindi il corpo da un punto di vista molto biologico, quindi il corpo in una fase pre-individuale senza la grammatica. Ma esiste questa. Qua però no. Allora, te, ontologico. Io stavo pensando. Ci ho passato su un vero pontino, magari ci vuol dire. Perché parla del corpo. Ma no, io stavo pensando più che Bataille Nietzsche, pensavo Cartesio, l'io senza mondo.